Sena veste arrivata, fino entro esa luna e no ha battito cosa. Sena veste arrivata, sa cosa da fortuna. Sa sbagliana sa sposa, sa si sposa scoiovata. Vente capo e su su, fa la da simmugheo a comporare in u. Vente capo e su su, salme l'arde su sino, sino la stocco deo non li scratto in più su. Sandalione, tana greco stitulao, scauno sandalu varia. Terras de sandalione, come uno asprus corria, se sprena de sordaos, de base se presone. Manizza giovennello con tanta passione. Giovanni artista, salotta e brato bello, serva di lezione, brosor militarista. Nudo che ne sedda e ne brilla. Cadderi sedi leso sa tutto sa sfamiglia, buon manda su saluto su cuore so.